motore. Partito. Azione! Ciao, sono Emanuele e volevo ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 19 va in onda Movieland, il cinema alla radio. Curiosità da Hollywood, panoramica sui film in sala, approfondimenti ed interviste con i protagonisti della settima arte. Il tutto accompagnato dalle canzoni che sono state la colonna sonora di tanti film e della vostra vita. Movieland, se siete amanti del cinema, è un appuntamento al quale non potete assolutamente mancare. Ogni sabato sulla vostra radio dalle 18 alle 19. Vi aspetto. Come with me for fun. In my bargain. Come along, let's go for the hell of it. See the faces round, they're all looking, wondering if they'd like to come for a ride. I'll bet you anything, now she's with me, there'll be no trouble. Chi se la ricorda? Immagino che vi ricordate tutti che questa è del film Altrimenti ci arrabbiamo, con Bud Spencer e Terence Hill, un film del 1974. Ciao a tutti, questi sono gli Oliver Onions con Dumbaghi. Io sono Emanuele, ancora una settimana qua insieme a voi con Movieland. Movieland, per chi fosse ai primi ascolti, è un programma di approfondimento cinematografico che va in onda il sabato dalle 18 alle 19, appunto, sulla vostra emittente preferita. Benissimo, noi possiamo andare avanti? Sì, allora perché ti sei fermato? Non lo so. Eccolo qua, Ready or Not, ci siamo, vai. Eccolo qua, Ready or Not, Cedric Gervais featuring Second Son, da Pain and Gain del 2013. Siamo pronti o non siamo pronti? Ma sì, siamo tutti pronti in questo pomeriggio sabato 3 agosto. Ciao a tutti ancora una volta, Emanuele insieme a voi. Allora, Movieland, Movieland non è solamente notizie cinematografiche, non è solamente approfondimento, ma è anche tante belle canzoni tratte dai film, come questa qua, Ready or Not, appunto tratta dal film Pain and Gain, che è ancora nelle sale e che sta facendo grande successo con The Rock e chi c'è anche Wahlberg, Mark Wahlberg, sì c'è anche lui. Benissimo, allora noi possiamo andiamo avanti con una bella notizia che ci arriva direttamente dalla grande mela, da New York City, perché praticamente YouTube ha aperto un nuovo studio di videoproduzione di oltre 2000 metri quadrati. L'annuncio, come riportato dal blog di Oltreoceano, è stato fatto alla conferenza VidCon in California. Lo studio metterà gratuitamente a disposizione dei professionisti che creano contenuti per YouTube tutti gli strumenti per la produzione e la post-produzione video. Sarà inaugurato a ottobre del 2014 nel Chelsea Marketplace. È il quarto che YouTube apre nel mondo dopo Los Angeles, Londra e Tokyo. Quindi a tutti i videomaker che vogliono fare delle bellissime produzioni da poi mettere su YouTube, YouTube vi mette a disposizione anche il posto dove farle. Ma pensa tu. Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo, papa loves mambo. Mama loves mambo, mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Papa loves mambo, mama loves mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves mambo, papa loves mambo. Mama loves mambo, mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause papa loves mambo tonight. Papa loves mambo, mama loves mambo. He goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Papa loves mambo, il papà ama il mambo. Voi cosa amate? Merengue? Amate la dance? Amate il rock? Insomma, l'importante è che in quest'estate ci muoviamo, perché fa veramente caldo, dobbiamo sudare e espellere tossine. Vabbè, io sudo anche da fermo, ma quello è un'altra cosa. Benissimo, allora io vi ricordo che per mettersi in contatto con Movieland ci sono un paio di strade. Una è naturalmente la nostra pagina di Facebook, Movieland Italia, ci cercate su Facebook Movieland Italia e ci trovate. Un'altra è la mail, che è movieland.radio@gmail.com. ma noi andiamo avanti perché adesso c'è una bella canzone targata Mina, ma una cosa un po' differente. Movieland, il cinema alla radio. In the town, night after night, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-

non credete che questa sia Mina? Ebbene sì, invece è Mina in versione English, che ci arriva dal film La banda dei Babbi Natale di Aldo, Giovanni e Giacomo di qualche anno fa, del 2010. Bellissima questa canzone in inglese, ma anche altre canzoni che Mina ha cantato appunto in questa occasione. Ma noi vogliamo continuamente andare avanti, perché adesso abbiamo il nostro trailer della settimana. Moviland, il cinema alla radio. Ti sfido a cantare come loro e non andare fuori di testa. Il Chronoshock 13. Non ve l'hanno detto, vero? La vostra azienda ha chiuso. Hai chiuso l'azienda? È tutto computerizzato adesso. La gente nutre profonda sfiducia verso le macchine. L'hai visto Terminator? Già. Il 2? Mm-hmm. Il 3? Sì, il 4? Tutti. Siete stati dei venditori incredibili, ma ammettetelo, siete dei dinosauri. Nick, ci sono. Google. Ci hai trovato un lavoro a Google? Beh, non un lavoro-lavoro. È un colloquio per uno stage che poi potrebbe portare a un lavoro. Questa potrebbe essere la nostra ultima occasione. Dai, avvicinati, non ci vedranno. Vedi quanto è piccola la webcam. No, dai, guacia. Vi vediamo, ragazzi. Ok, bene, fantastico. Ci vedete? Salve, okay. Io mi chiamo Billy. E vi sentiamo anche bene. Oh, grande. Benvenuti a Google. Il 5% di voi troverà un lavoro a tempo pieno. Il restante 95% si attacca. È come in Hunger Games. Siamo nell'arena contro una marea di piccoli geni per una manciata di posti. Io sono Lyle, uno dei team manager. Sbattimelo. No, noi siamo vecchio stile. Noi quelle cose perverse col pugno non le facciamo. Fratello, mica mi fa male. Sono abituato. Qui c'è qualcosa che non va. Voi siete stagisti? Sì, ma giura. Indovinato. Siete così vecchi, vi credevo persone importanti. Perché come si dice, chi non risica non rosica. Prima sfida, creare un'applicazione. È l'ora delle idee. La gente scatta foto in continuazione, perciò uno può prendere quelle foto e metterle tutte in line. Online? E condividerle con gli amici. Quello è Instagram. Il mio è più un social sharing in line. Piccolo quesito, quando dici in line, intendi online? Certo. Ci sono delle regole. Paletta rossa indica no, paletta verde sì. Bere una birra con il vostro capo. Se vuole scolarsene una ghiacciata con me, basta dirlo. Io non me ne scolerò una ghiacciata con te. Una canna? Il vostro compito è trovare il bug. Perché non andate a trovare subito il programmatore? Si chiama Charles Xavier. È un professore a Stanford. È su una sedia a rotelle. Stanford, sedia a rotelle, ce l'ho. Sì. Charles Xavier? Molto spiritoso. Professor Xavier, sappiamo chi è lei. Mi avete scoperto anche Ciclope, Rogue. Siamo tutti qui. Ora vorrei condividere un po' della mia saggezza con voi. Oh mio Dio! Professor Xavier, lei è un grandissimo... Moviland. Il cinema alla radio. Moviland, il cinema alla radio. E anche questa settimana, anche se la nostra amica Erika Melis non c'è perché è andata in vacanza, siamo arrivati alla rubrica con Film Up, il portale del cinema a tutto tondo, dove potete trovare qualsiasi notizia che vi interessa sul cinema, sulle prime visioni, sulle uscite in DVD, sulle soundtracks, eccetera eccetera. E vogliamo parlare appunto del film che abbiamo appena ascoltato nel trailer, Gli Stagisti. Gli Stagisti infatti è un film con Vincent Vaughn e Owen Wilson. Sono due commercialisti la cui carriera è stata letteralmente stroncata dal mondo digitale. Nel tentativo di dimostrare che non sono proprio da buttare, sfidano l'impossibile e riescono ad essere ammessi ad un ambito stage alla Google, insieme ad una schiera di brillanti studenti universitari. E quindi ne vedremo delle belle, perché appunto non sapranno proprio adattarsi benissimo, ma alla fine Bill e Nick e i loro compagni di squadra scoprono che la vittoria è legata alle lezioni della vita, che qualche volta vincere non significa arrivare primi, e che anche loro possiedono la Googleness, ossia il desiderio cioè di continuare a cercare. Poi cosa troveranno? Quello lo sapremo solamente se andiamo al cinema. Questo film doveva uscire il 26 di settembre, invece sembra che sia nelle sale da giovedì, quindi tutti quelli che volete nel fine settimana correte al cinema a vedere questo simpaticissimo Gli Stagisti, una bella commedia con la regia di Sean Levy. E benissimo, passiamo al botteghino. Invece questa settimana vediamo che si porta a casa il soldo grosso Wolverine l'immortale, perché infatti guadagna 1,5 milioni di euro in Italia, naturalmente, perché poi già gli Stati Uniti è un'altra storia. Quindi noi continuiamo con Movieland e continuiamo con una bella canzone italiana. Movieland, il cinema alla radio. Voce di pioggia su di me, era sereno fino a 2 minuti fa, poi chissà com'è, ha messo giù muso insieme a me questo cielo, e sento gocce sul collo e sulle mani. Ascoltando Movieland, il cinema alla radio. My car didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You've got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. But when I turned on my radio, I found out all I needed to know. Check it out. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Hey, listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Ma sì, speriamo che l'abbia fatta tutta. Last night DJ Save My Life. Questi erano gli Indeep, arrivavano direttamente dalla colonna sonora del di Immaturi del 2011, un bel film appunto italiano, di quelli che piacciono a noi, una bella commedia italiana. E andiamo avanti, perché poi vabbè, ci siamo ascoltati prima, vi ricordo, Ornella Vanoni con Gocce di pioggia su di me, tratto dal Principe abusivo, un'altra commedia italiana del 2013, ma dobbiamo parlare di un po' di gossip cinematografico, o comunque relativo al cinema in generale, perché parliamo di Maccio Capatonda. Dice, e chi è? Maccio Capatonda è un comico che si è reso famoso su YouTube facendo dei trailer finti, diciamo, molto simpatici, molto divertenti. Però si parla di Maccio Capatonda, o Marcello Macchia come si chiama veramente, perché si è messo insieme, sembra, si dice, non si sa, si rumora, che stia insieme a Elisabetta Canalis, che da George Clooney a Maccio Capatonda, Maccio Capatonda è un bravo ragazzo, molto carino, però diciamo c'è la sua differenza. Comunque le dice che lo fa ridere molto molto, e lui non smentisce che ci sia questa storia. Dice, chi sono io per smentire i quotidiani? Giustamente, Marcello Macchia, Maccio Capatonda, è arrivato anche per lui il suo momento, anzi mi sembra che ci stiano chiedendo la linea. Sì Mario, ti sento forte e male, mi trovo nella ridente cittadina di Sparate sul Cranio, dove poche ore fa è avvenuto un simpatico omicidio, ma facciamo partire subito il filmato letale. Mamma, guarda come mi vesto da bersaglio e vado al poligono. Queste le ultime parole di Arturo Barchetta prima di perdere l'uso della vita. Da tempo il ragazzo 23enne coltivava la passione del trasformismo estremo, e già il mese scorso ci stava rimettendo la schiena quando, travestito da strisce pedonali, si era sdraiato a pelle di leone sulla statale del ventre. Fortunatamente il primo a passare sul suo corpo era stato un motorino, che lo aveva invitato poi a togliersi dalle palle. Questa mattina invece le cose sono andate diversamente. Arturo infatti si è recato insieme alla madre al poligono di tiro, indossando il suo realistico costume da bersaglio. Facile immaginare l'esito della bravata. Appena ha messo piede nell'edificio, il ragazzo è stato crivellato da un'infinita scarica di colpi sparati da tutti i tiratori scelti del poligono, che in quel momento si stavano allenando per la nota gara di paese "più colpisco più vinco". Sì, ho visto tutto, perché stavo andando a lezione di testimonianza quando a un certo punto ho visto sto bersaglio che camminava da solo e mi sono detto, ma che stiamo, la quinta guerra mondiale? Poi gli hanno fatto una scarica di mitragliate micidiali, così rumore tipico tra l'altro della catapulta. I tiratori del poligono di Sparate non rischiano nessuna condanna perché hanno tutti sparato in buona fede e il pubblico ministero ha già archiviato il caso come omicidio premeritato. Questi tiratori erano zingari, zingari, zingara, zingari. Sì, Mario, ed ora siamo qui con la madre del cadavere di Arturo, che purtroppo è rimasta illesa durante la sparatoria. Signora, che cosa ha provato mentre suo figlio veniva massacrato dalla pioggia di proiettile? Cosa ha provato, signora? E ce lo dica! La gente vuole sapere, signora! Non posso. Dolore ai timpani? Relax! Ho un forte senso di colpi. Niente, la signora non risponde, allora lo chiediamo ai nostri telespettatori morbosi. Cosa avrà provato la madre di Arturo quando il figlio è morto sparato? Dolori ai timpani? Relax o un forte senso di colpi? Prova a indovinare mandando un SMS al numero in sopraimpressione. Potresti vincere la fantastica suoneria mitraglietta. E da Sparate sul cranio è tutto. A voi mi ho fregato tutti, mi ero travestito da morto sparato. No, no, scusate, ma scusaci Mario. Buffone. Lo ammazzo io. Lascialo stare che lo ammazzo io. Moviland, il cinema alla radio. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love that's a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness, get ready, she's quitting, balls of fire. I let that love fall, I thought it was funny. You keep it on and you move, now honey. I changed my mind, but it's fine. Goodness, gracious, she's quitting, balls of fire. Lover should. You're fine, so kind. I'm gonna love this world that you're mine. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. The goodness gracious, with balls of fire. You're fine, so kind. I got to tell this world that you're mine. I treat my nails and I play on my farm. I'm real nervous cause the show is fun. Come on baby, time to crazy. Goodness gracious, quick balls of fire. Oggi a Movieland parliamo di crowdfunding. Cos'è il crowdfunding? Praticamente è una forma di finanziamento che non serve solamente per il cinema, non serve solamente per le produzioni audiovisuali, ma anche per editoria, musica, eccetera. Il primo sito in assoluto messo in piedi in Italia nel lontano 2005 è stato Produzioni dal Basso di Angelo Rindone. Abbiamo con noi Angelo Rindone che ci spiegherà un poco questo fenomeno. Ciao Angelo. Carlo. Sì, ciao e grazie per l'invito. Benissimo, grazie a te per averlo accettato. Raccontaci, che cos'è il crowdfunding? Spiegalo in parole povere, tra virgolette. Innanzitutto il crowdfunding è un fenomeno abbastanza nuovo e recente, diciamo che è un fenomeno che è nato intorno al 2009 e partiamo dalla parola. Crowdfunding è un neologismo che unisce due parole: crowd, inteso come folla, moltitudine, sì, e funding, inteso come finanziamento. Quindi in pratica è una forma, per italianizzarlo potrebbe essere tradotto come una forma di finanziamento dal basso, finanziamento dalla folla. Sì. In pratica è una forma di social networking economico, cioè ovvero attraverso il crowdfunding, attraverso le piattaforme di crowdfunding, progettisti di qualsivoglia tipo, quindi lo dicevi tu, cinema, editoria, ma anche addirittura startup, design, possono mettere online dei progetti con dei budget e un timing e possono raccogliere delle piccole quote di donazione da parte delle persone online. Ovviamente questo si incrocia con i social network perché i progetti vengono poi condivisi, raccontati e storytellati, si dice, cioè, e quindi vengono presentati attraverso dei pitch video dai progettisti stessi. Prima c'era il produttore che realizzava il disco, il film e lo metteva poi in vendita e in distribuzione. Adesso attraverso il crowdfunding si cambia il paradigma e i produttori diventano, come dire, le persone, quelli che prima erano i consumatori adesso diventano i veri e propri produttori di opere dell'ingegno, della cultura o del design. Certo, magari per la legge dei grandi numeri, in un momento come questo di crisi dove si trova difficoltà a finanziare qualsiasi tipo di progetto, magari un pochino, un granellino di sabbia lo mettono tutti e si riesce a realizzare il progetto più grande. Per quanto riguarda produzioni dal basso, negli ultimi 6 mesi avete fatto dei bei numeri, perché comunque ci sono 10.000 persone iscritte, più di 100 progetti finanziati e un movimento di denaro, di transazioni tra gli utenti, come mi dicevi tu prima, di 200.000 euro circa, di cui di questi 200.000 euro produzioni dal basso non trattiene nulla perché il servizio è gratuito. Sì, diciamo così che le piattaforme di crowdfunding hanno in genere un modello di business che è basato sul fee, sulla trattenuta, diciamo, di una percentuale del budget. Produzioni dal basso non ha questa caratteristica. In assoluto i numeri che dicevi sono i numeri rappresentativi degli ultimi 6 mesi, però insomma, visti nel macro, diciamo così che produzioni dal basso ad oggi una community fatta di più di 35.000 utenti iscritti e più di 300 progetti finanziati. Quindi insomma, sul nostro sito, che è uno dei più vivaci tra, certo, i siti di crowdfunding italiani, si possono insomma vedere anche oltretutto in maniera molto chiara, molto trasparente i numeri, e si possono soprattutto vedere quali sono stati i progetti che sono stati finanziati, quindi quali sono i progetti che vanno di più, e poi anche i progetti attivi, quelli che stanno cercando un finanziamento. Diciamo che si trovano progetti molto interessanti anche in ambito audio video, documentari, corti, cinema eccetera, anche progetti di case editrici anche insomma importanti, certo, però si trovano anche progetti molto amatoriali, magari presentati non benissimo. Quindi ecco, diciamo che questa forma, questo colore che ha la nostra piattaforma di essere una piattaforma appunto aperta a tutti, la rende veramente una piattaforma molto vivace e anche in certi casi molto divertenti, perché bisogna dirlo, ogni tanto ci sono dei progettisti che propongono dei progetti, diciamo, al limite dell'infinanziabile. Eclettici. Però, insomma, quali sono le regole d'oro se esistono perché il progetto sia appetibile, finanziabile? Le regole d'oro secondo me non esistono, non esiste l'algoritmo, anche perché noi abbiamo visto nella nostra esperienza che molte volte ci sono progetti, come dicevo prima, infinanziabili, che invece avevano delle community disposte a sostenerli, e progetti invece ben presentati con tutte le carte in regola che invece non hanno trovato finanziamento. Quindi la regola non esiste, deve essere tutto molto chiaro e molto trasparente. La trasparenza è una delle caratteristiche del crowdfunding, e poi ovviamente la capacità di raccontare il proprio progetto, cioè di mettersi online anche magari con un video nel quale uno ci mette la faccia in prima persona, mm-hmm, e raccontare, spiegare perché inizialmente i tuoi amici, poi magari i tuoi fan o la tua community di riferimento, poi quelli del tuo territorio e poi infine chissà chi altro debbono magari mettere 10, 15 o 20 euro per sostenere questo tuo progetto. Invogliare sia attraverso un progetto che sia bello, partecipato, nel quale le persone dicano sì, voglio partecipare anch'io a questa cosa, voglio esserci anch'io, ma anche magari attraverso una ricompensa che può essere nel caso caso di un libro, ad esempio ricevere il libro a casa. Molti registi utilizzano alla fine del film mettere nei titoli di coda ringraziare tutti i sostenitori. Questa è una ricompensa, diciamo, di tipo emotivo. Benissimo, io ringrazio Angelo Rindone che è stato con noi per spiegarci come funziona il crowdfunding. Ecco, permettimi solamente una chiusa di questo tipo, sì. Visto che a me non piace molto fare spot pubblicitari, dico anche che in Italia ce ne sono più di 40 di piattaforme di crowdfunding, quindi oltre ad andare a visitare Produzioni dal Basso, a noi fa piacere, ma di farsi un po' un giro per verificare e vedere la ricchezza che c'è dietro questo tema del crowdfunding, le tante piattaforme che stanno nascendo anche tematiche e quindi le tante opportunità diverse per tanti progettisti. Benissimo, ti ringraziamo quindi, alle prossime. Ciao, grazie. Moviland, il cinema alla radio. Bel pezzetto da discoteca che ha messo su la bella Britney Spears in compagnia dei suoi figli in questo bel video che ha fatto appunto per l'uscita in anteprima dei Puffy 2 negli Stati Uniti. Questa canzone infatti sarà la colonna sonora del nuovo lavoro sugli Ometti Blu. Noi però non abbiamo assolutamente finito di parlare di crowdfunding perché abbiamo degli ospiti adesso. Quest'oggi negli studi di Movieland ospitiamo abbiamo virtualmente un progetto di webserie. Il gruppo che lo promuove si chiama Insania Project, fa capo a due registi, Francesca Manuele e Marco Latour, che si sono inventati questo soggetto per questa webserie molto interessante, che si ispira liberamente al racconto di Lewis Carroll Alice nel Paese delle Meraviglie. Siamo insieme a Francesca Manuele. Ciao. Ciao Emanuele. Francesca, ciao Emanuele. Abbiamo un doppio nome. All'occorrenza lo puoi usare come femmino o come maschio, insomma. Sì, infatti, è versatile. Benissimo. Allora, senti, parliamo un po' del vostro progetto. Voi siete appunto due registi, abitate, se non mi sbaglio, in provincia di Napoli. Praticamente questa cosa l'avete iniziata a scrivere un anno fa, in una settimana l'avete girata, è arrivato alla luce questo progetto di webserie. Raccontaci un po' da dove è partito il progetto e come avete pensato di fare questa cosa. Beh, allora, la storia di Lewis Carroll ci ha sempre affascinato e l'idea di portarla ai giorni nostri è una cosa che ci intrigava parecchio, e per questo abbiamo deciso, visto che comunque la storia in qualche modo si prestava anche a una certa serialità, visti i vari personaggi, a voler fare cominciare questa avventura della web series. Tutto comincia dalla puntata zero, perché insomma noi cerchiamo un riscontro di pubblico, appunto, vorremmo capire un po' tramite questa piccola indagine di mercato dalla puntata zero se la cosa effettivamente può piacere oppure no. Vabbè, in effetti noi stiamo cercando di raccogliere anche fondi per poter continuare. Però insomma, per adesso c'è la puntata zero e inviterei tutti a vederla, insomma, a capire di cosa si tratta. Dove si può vedere la puntata zero? Dai un po' di indirizzi. Allora, si può vedere sicuramente sul nostro canale YouTube di Insania Project. Basta, vabbè, scrivere il nome della serie, cioè Bring Me Alice Said, oppure sul nostro sito www.insaniaproject.it. Questi sono gli indirizzi principali. Poi sono stati scritti vari articoli e si può recuperare un po' da qualche altra parte, insomma, la puntata, però questi sono gli indirizzi principali. Certo, diciamo che la storia ha scanso di equivoci, perché uno si ricorda Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi si ricorda un po' la storia originale. Non è una storia molto edulcorata, diciamo, è Alice che al giorno d'oggi, nel mondo d'oggi, sta cercando il bianconiglio per tornare nel Paese delle Meraviglie, ma diciamo che vive in un'Italia contemporanea dei giorni d'oggi e quindi vuole scappare verso questo mondo immaginario, questo mondo delle meraviglie. Però ci sarà la matrigna, che in questo caso è impersonata da un uomo, che glielo vuole impedire. Sì, in effetti è lei un po' cresciuta, non più la bambina che ritroviamo nel romanzo di Lewis Carroll, che cerca di evadere appunto dalla realtà, e l'unico modo secondo lei è ritrovare il bianconiglio e quindi la tana e quindi il Paese delle Meraviglie, e lei è alla ricerca di questo bianconiglio che poi ritroverà in realtà in versione umana, e sarà una bella sorpresa, insomma. È tutto un po' cambiato anche lì rispetto a quello che lei si ricordava. È comunque una Alice contemporanea e in una versione un po' più favola dark, diciamo. Avete messo insieme un buon gruppo di attori, perché dalla puntata pilota appunto si vede, diciamo, il talento di questi giovani ragazzi. Raffaella Anzalone che impersona Alice, ma anche gli altri, il bianconiglio eccetera. Vuoi fare qualche nome? Sì, ricordiamo il nostro fantastico bianconiglio Andrea Beretta, il nostro stregatto Simone Baldassarri e la nostra regina in versione maschile Vincenzo De Falco. Sono tutti ragazzi che studiano da tantissimi anni recitazione e sono molto impegnati sia sul campo teatrale che cinematografico. Non potevamo sperare di meglio come cast, insomma. Voi avete pubblicato questo progetto su un portale, il portale Produzioni dal Basso, che si occupa di crowdfunding. Sì, infatti noi abbiamo subito puntato su questa cosa, sperando appunto in un buon riscontro. La quota minima è 5 euro. A noi servirebbe un gran numero di persone che versano una piccola quota per poi realizzare l'intero progetto. Questa secondo me è una bellissima iniziativa che sta avendo grosso successo in America, e in Italia sta facendo i primi passi, perché in effetti anche la cifra finale, quella nostra è stanziata di 5.000 euro, basterebbe in effetti soltanto a pagarci le spese, non certo. Ci sarebbero retribuzioni per nessuno purtroppo, però in ogni caso avremo modo di andare avanti con la serie. Ringrazio Francesca Emanuele per essere stata con noi. Grazie a te. E io vi auguro tutta la fortuna del mondo di riuscire ad accumulare tramite Produzioni dal Basso questi 5.000 euro che vi servono per mandare avanti il progetto. Naturalmente noi lo sponsorizzeremo il più possibile sulla nostra pagina Facebook. Quindi vi ricordo Bring Me Alice Head di Insania Project, Francesca Emanuele e Marco Latour. Io ti ringrazio, facci sapere i futuri sviluppi. Va bene, senz'altro. Grazie ancora. Un saluto. Movieland. Il cinema alla radio. Ebbene sì, ricordiamo chi siamo. Siamo Movieland sulla vostra radio preferita anche questo sabato in compagnia di Emanuele fino alle 19. Ormai manca poco e quindi dobbiamo anche iniziare volendo a farci i salutini. Ma comunque prima di salutarvi io vi ricordo che anche la prossima settimana saremo su queste frequenze naturalmente dalle 18 alle 19 con questo bel programma di approfondimento cinematografico che si chiama appunto Movieland. Io voglio però metterne un altro. un'altra prima di andare via, quindi vi saluto sulla prossima. Intanto ci ascoltiamo The Phantom of the Opera, il grandissimo lavoro di Sir Lloyd Webber. Mi dispiace molto interrompere questa bellissima canzone tratta dal musical di The Phantom of the Opera di Sir Lloyd Webber, però già la conoscete, quindi vi ricordo appunto che la potrete riascoltare nelle repliche o comunque dal podcast, che potrete trovare a partire subito dopo il programma sulla nostra pagina di Facebook, che è Movieland Italia. Quindi cercateci su Facebook sotto Movieland Italia, ci troverete, oppure se non ci trovate ci scrivete una mail a movieland.radio@gmail.com e naturalmente sarò molto lieto di darvi tutti i riferimenti per poter riascoltare anche le puntate vecchie. Volevo darvi solamente un'ultima notizia, che adesso finisce di gridare la signorina, eccola qua, e volevo dirvi che Penelope Cruz ha appena esordito alla regia dello spot della sua marca di lingerie low cost. Lei ha scritto, lei ha appunto firmato una griff di lingerie low cost insieme a sua sorella, li potete trovare appunto in un bellissimo video molto erotico, molto sexy, sempre sulla nostra pagina di Facebook, al quale ha partecipato anche il marito della bella Penelope, Javier Bardem, eccoci qua, mi è venuto benissimo. Quindi Monica Cruz, Penelope Cruz insieme per questo bel video di lingerie. Adesso siamo arrivati veramente alla fine, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando, se vi è piaciuto il programma segnatevelo sui preferiti, perché noi ritorneremo sicuramente. Un saluto da Emanuele e ciao ciao a tutti, buona serata. Movieland, il cinema alla radio.